cerco, e invece lui continua a rompere le palle, capito? Perché anche io con Gianni ho avuto un piccolo diverbio, però da persone grandi abbiamo chiarito il verticale. Io gli ho telefonato, gli ho mandato un messaggio, non risponde, e quindi per me è chiuso il discorso. Io ho 53 anni, lui ne ha 13 meno di me, quindi deve avere un attimino di rispetto verso le persone, invece non ce l'ha. E allora, siccome io non sono un pupazzo, sono nato prima di lui, ho vissuto la radio prima di lui, la vivo prima di lui, e pertanto non può fare altro che uscirmi dal culo, sempre nei dovuti modi, però con molta educazione, fino a quando non cambio idea. Nel momento in cui cambio idea, lui la radio se la può vendere perché ha finito di trasmettere. Avanti Gianni, rimango il cuore X. Comunque lui mi apre il telefono e ti dico anche chi è, che tanto lo sanno tutti, è bene che lo sappia anche tu. Per favore, la sua casa lo sai, no? Quando vuoi. Bene, KK, Gianni, riprenditela, ti stavo ascoltando anche ieri notte io. Comunque io non sono uscito, non so dove erano gli altri, solo che Massimiliano è salito dopo la partita al quadrato, non c'era nessuno. Ma io ero accesa, la radio erano accese. Ti ho sentito un attimo che hai scambiato due parole con Franco, ma non sono manco entrato, la verità. Sì, in effetti è così, perché poi sono entrato al computer, mi è venuto il sonno, stavo parlando con una amica, gli ho detto scusami ma sono troppo stanco, e poi sono vedo drumbito, non riuscivo manco a spegnere l'interruttore generale della ciabatta. Se non mi dava a cuore a spegnere, lo stavo quasi lasciando così perché mi è venuto un colpo di sonno allucinante. E così mi disoggo drumito e mi sono svegliato stamattina. Già tu lo sai, io devo rimanere un altro mese a casa, quindi faccio radio, ci sono tutti i giorni e se ci sono io la gente entra, tengo i canali impegnati, o a destra o a sinistra. Però in questo periodo non me la sento di fare polemiche, di fare guerra, no, non me la fotti ben nulla. E quindi non ci sono io e i canali sono morti, perché non me la fotti nulla. Questo è il quanto. Ma dimostrasi, perché io sono sempre in ascolto e, no, e non c'è nessuno. Quindi va bene così. Per il momento va bene così. Poi vediamo fino a che punto arriva. Quando arriva al punto che dico basta, allora è basta, Luca lo sa, e tu anche no, perché poi subentra la forza, subentra quello, subentra quell'altro, e quindi ci piangono tutti, perciò per non rompere il coglione a nessuno preferisco stare in silenzio. Boh, bravo, cercate di mettervi d'accordo, e così si risolve tutto. Andare, dai, qua. Buona carica quando la fai. E al limite ci sentiamo dopo se vuoi entrare, non lo so, come vuoi. Vedi tu cosa fare. Avanti lui. Sono più qua, là. C'è di una ambulanza, come chiacchia, se ci può urlare, se no niente. Io sono letto di un computer, ho una scheda madre, ma mi sa che non disturba a me, no, a me se voglio mi senti, è come se mi senti, disturba te come disturba gli altri che parlano con me, quindi siete voi che dovete agire, non io, no, io sono tranquillo, non ho problemi. No, io guarda, ho finito di lottare, di fare, no, non ne ho più voglia, quando vedo che la cosa non va, prendo, spengo tutto e buonanotte. Tutto lì, non agio più gana, ho voglia solo di rilassarmi, sono un periodo anche che è un po' così perché sto lavorando abbastanza, sia la mattina che la sera, abbiamo ripreso la grande con la vendita, quindi ti puoi immaginare come sono io sono distrutto, quando torno a casa ho poca voglia, se è per rilassarmi, ok, se invece per darmi i problemi, io sono tutto. Oh. Bravo, già, la stessa cosa ti dico, siccome io faccio radio per rilassarmi, per divertirmi e fare divertire, se non si può pazienza, mi rimango in quel X, capito? Le radio sono sempre accese, però non ho più voglia, come dici tu, di stare a lottare, quindi siccome è già successo anche l'altra volta, stavo parlando con un mulino, c'era questo ticchi, ticchi, ticchi, ticchi, ho attaccato l'amplificatore, me lo mangio come quando voglio, ma siccome la corrente la pago io, no, non ho voglia di stare a giocare con la gente. persona grande, allora rientrerò in radio definitivamente. Per il momento mi va bene così, due chiacchiere, quando è fattibile, altrimenti ciccia. Va bene, dimostraci quanto tutto è stato detto da parte sua, quanto tutto è stato fatto, che sono solo parole, non fatti. Ok, dai, ciao a tutti, quello che ti permetto, parlando anche troppo. Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao, qua, ci sentiamo. Buona carica, avanti. Dopo, cara, aspetta, io direi qui scorso cosa, va, arrivo subito. Arrivo. Poi, dopo, vado ad avanzare anche. Chiama e ascolta, cambio passo. siamo a stand-by. Ecco qua. Messo in stand-by. E quindi già non ci siamo andati al mare, dai. Sempre verso la 48, sì. Giusto. Concordia Risa, città di Sassari, ben ascoltato. C'è un po' di bordello, ma comunque riesci a passare tranquillamente. Non ci sono problemi, con la speranza che tu mi ascolti, cambio. Ciao, buongiorno anche a te, dai. 45, vi sentivo bisbigliare qua sul 46. Ciao! Capito? solo che ogni tanto mi scappa il dito, porca miseria, vado ad attaccare sempre quel mostriciattolo che si chiama TL922, allora c'è un incrocio di dagli 800 ai 1200, capito? Ascoltate Nord Italia. K di positivo. Ok, c'era anche un altro amico, vale, che non ho capito chi è, vedo forse riesce a cancellarlo tu K. Sento un po' di gente, non si capisce più niente, io non capisco più nulla, ne arrivo dei messi uno sopra l'altro, però non capisco niente. Riprendi Claudio. Attenzione, centro nord e sud Italia, l'isola Sarda vi ascolta tutti, però c'è un po' di bordello, quindi gli amici di Alghero non riescono ad agganciarvi. Chi era l'altro amico lì della provincia di Livorno, avanti sul canale 46? Stazione Boomerang, Radio Sparviero, stazione Boomerang da Firenze, ti cordializza, 7351 a te l'amico di Alghero, mi sembra di aver capito. K Rogero. K di positivo, ciao Radio Boomerang, ben ascoltato e buona serata anche a te, Radio Sparviero qua. Dal nord della Sardegna, città di Sassari, l'operatore Claudio, in compagnia di Valerio, Franco e Roberto D'Alghero. Siamo tutti qua nella terra sarda, l'isola più bella del mondo, cambio, cambio. Quasi di volare, se vi ascoltate io vi saluto a tutti quanti, sono sarda, Radio Popoletto, guardate, avvicinamento di Ravenna, vi saluta, buona coordinazione, alle prossime, gappa. Che vi ascolta con un segnale di 9 a una radio di 5 K, grazie alla propagazione oggi. Ciao Ravenna. Vai per te di nuovo Claudio e fai girare, cambio, grazie. K di positivo anche per te, cordialità e saluti qua dalla terra sarda. Ciao Ravenna, buon proseguo di serata, alle prossimine, grazie per essere entrato. Radio Sparviero e tutta la terra sarda, compresa quella di Alghero, ti mandano i più cordiali saluti a te e famiglia, grazie, a presto, vai Valerio. Appunto, ci devi pensare tu qua, dato che sei il più forte. E ti ascoltano, e per me è un po' negativo perché ascolto un bel di gente e non capisco niente. Riprendi Franco. Vediamo se l'amico Radio Bomber che sta ascoltando qui Franco. Dalla città di Alghero. Avanti il cambio. Gamba, Roger positivo Franco, ti ascolto benissimo, quasi come Claudio, qui dalla stazione Boomerang in provincia di Firenze. Ok Franco, vai di nuovo per te e mi dai un controllino anche ci sei, K. Ok, il controllino per te di segnale di 7, è una radio di 5. Ok, riprendi ancora per te, non fa fai girare il cambio. Grazie Franco, vai, un buon rapporto questo, Santiago 7 Radio 5 è ottimo, è più è sopra le mie aspettative. Ti ringrazio Franco e rilancio il mic a Claudio, Radio Sparviero da Sassari, se ho ben capito. Qui la stazione che ha modulato Boomerang in provincia di Firenze. Tappa di positivo, ciao Boomerang, ben ascoltato anche per te, cordialità e saluti, Buon Radio Sparviero dalla isola nord della Sardegna, città di Sassari. 659 più qua, è ottimamente bene. Non ci stanno problemi Boomerang, ti ascolto magnificamente bene, senza nessun problema. Ok, vale, c'è Ruby che è rimasto in bianco, lì, vabbè, o le lanci l'antenna o le lanci il microfono, dipende da te, che vuoi fare, appa. siamo una portante, non so se è roba di Foglio o della zona, non lo so io. Ah, Roberto, ti copro, vai, ti copro, allucinante, io sto pensando delle volte, sono dei momenti che a Roberto non lo ascolto, perché lo sovramodulano. Ok, Radio Boomer anche così non lo ascolto, adesso ci sono dei momenti che lo sento, dei momenti no, comunque Santiago a 7 a 9 e Radio 5, riprendi Radio Boomerang. Canta Roberto, grazie. Roberto, sente che tu c'hai, per quello che a volte vengo coperto, logicamente sai com'è, i chilometri. Questo non ha capito una minchia. Cari amiconi, se possiamo, io vi do la mia email, sono tutta la stazione Boomerang, Radio Boomerang, chiocciola email, se volete QSL, QSL, via email. Adesso lo mando a mia sorella. Molto, se possibile, se possibile, se non chiedo troppo, ma di solito... No, guarda, della 45. Anche io vorrei. Con internet, nelle... Buonasera a tutti da Nosso Vicero. solamente, ma non è Franco Bumera che sta modulando, non è Franco Bumera. Positivo, no? Perché ci sta anche Franco Boomer che modifica gli apparati, capito? Tu essendo Boomer non so se stai modulando con un apparato di Boomer. Tutta spezzosa. Se ci avevi caso, però avevo ti spacco in terra. No, no, senti. Ciao Lu. Lascia stare, c'è una torre che c'è le lacrime. Non va bene Claudio, perché tu a tua sorella già l'ha promessa a tanta gente e nessuno se la catta, l'hai promessa a tanta gente ma nessuno se la catta a tua sorella, sto pensando con un numero anche dai, perché ultimamente mi ha detto fratellino vorrei andare in continente, vorrei girare un po' l'Italia. Che se la ciula non rimane incinta e si toglie la mezza ai piedi, gabba. Dammela a me, la butta come la peste. Attento, boomerang. Ma è brutta, Valerio. Non è brutta. È un incrocio tra una fuggibile e una saracinesca, gabba. Pelosa, ma poi già si può depilare, dai. Certo che sì, dai, buonasera anche a te, ben ascoltato, qua Radio Sparviero. Operatore Claudio della città di Sassari, Terra Sarda, in compagnia di Gigi Vulcano, c'è Valerio D'Alghero, Franco D'Alghero, Luca qua da Sassari, Salvatore che lui ride, però non entra mai, ride sempre ma non entra mai, capito? È innamorato di mia sorella, non vuole diventare mio genero, capito? Tuo cognato, che genere? Non fare confusione, Claudio. Vuol dire che c'è le sue ragioni, dai. Che palo di fuoco, centro Toscana, compra che non... Ah, io te lo brucio, sì. Ti dico la verità, questo passaggio è stato un segnale... Senti un po', ma tu sei scapolo? A me non ti serve una ragazza di Terra Sarda qua. Claudio, che tua sorella è ancora giovane, non è così, ancora nelle perfette attività ancora, Ma scarafone? Ma cosa state dicendo? È il fiore all'occhiello della famiglia, ragazzi. Non ha mai giurato. L'avevo scritta nella banda musicale della città di Sassari. Pensavo le facessero suonare il tamburo, invece gli hanno fatto suonare la tromba, l'hanno sverginata. Flauto. Copiato, coordinate isto. Allora si è trasferita e è andata dalle suore, capito? Prendetevela perché è una bella ragazza, una ragazza a posto. Sull'atto, capito? Togliete una mezza alle palle, gappa! Ricca, fa caldo, porca miseria, amico, ci stai staccando veramente. Salvato, il secchio è riempito, amico, le lacrime, il secchio sta riempendo. Mi è stato troppo ridere. Saluti a tutti, agli amici di Alghero, agli amici del continente. Ciao Cla, ciao Gigi, ciao Luca. Mi hai fatto troppo ridere. Se ti sente tua sorella, viene con la doppietta, viene. È vicino a Valerio, lì nella zona di Valerio, ma ormai non mi sente, un tempo voleva il baracchino a sentire le mie stronzate, ma non le ho mai messo, non si sa mai. C'è mica, ma non è identificata. Vediamo il trasportatore di Sessambulante. Poverina, ma quando è rimasta a vela, ma tu immaginati Valerio, che il marito è morto di disperazione perché non glielo aveva mai, giusto? non 74. 75. No, qua siamo sul canale 46, 475, vai. Osservatore, se mi sentite di splattere anche con la KF, ci abbiamo qualche partita in più, dai, che c'erano gli amici del continente, ma non riesco a sposarla questa ragazza, eppure è bella, c'è un occhio un po' storto, vale, ma non fa niente, col tempo si può addrizzare. Non di Sardegna, chi ha quella carta a carta? No, c'è solo un occhio storto, dai, poi c'è la cammina dritta comunque. Tanto non ti svegli di notte, non vede niente, non vede niente. Tu figurati che in Piazza d'Italia qua a Sassari, al marito, no? Ha perso il portafoglio, capito? Stavamo passeggiando in Piazza d'Italia, ha perso il portafoglio. E lei gli ha detto, non so se si può dire qua, ma comunque gli ha detto, guarda, puoi fare tutto, tanto con cazzo lo trovi. Quello imbecille con me si è tolto lo cielo fuori e l'hanno arrestato. Capito? Thank you. Italiana, il canale 46, canale 46. Coordinato lo di camera. Da Gianni, vediamo un po' se riusciamo a imbarcare tua sorella. Avanti Gianni, si ascolti la Sardegna. Attenzione alla Sardegna, si senti in coordinato lo di la Radio Marziano. Attenzione. Radio Marziano, ho capito bene. Matteo Marziano tu. Gianni. Buonasera, qua ho un pugno di amici, qua siamo nella combinata della città di Sassari, capito? E ci sta un amicaccio che vuole, si vuole disfare della sorella e non riesce a guidarla, capito? E la vuole dare sposa a qualcuno ma nessuno si fa avanti, capito? Nel pianeta e qua non torna più, volevo sentire, ma tu sei un extraterrestre o sei fisicamente, sei piazzato bene fisicamente? stare nel nord Sardegna. Gambio, Gambio. No, Gigi Vulcano qua nel nord Sardegna. Ciao Radio Cobra, buonasera, ben ascoltato, vai. Radio Spalghiero qua dalla terra sarda, 10 KFM da Gigi Vulcano, in compagnia degli amici di Alghero anche, Valerio e Franco, vediamo un pochino se ti hanno ascoltato. Avanti Radio Cobra per Valerio e Franco di Alghero, ha trasmesso Radio Spalghiero, operatore Claudio dalla città di Sassari, Gappa. Ciao Ciccio Cobra, dai, fatti un buon proseguo della domenica. Ciao Ciccio Cobra, dai. Questo è splatter al 45, bisogna aumentare qua. Valerio. Molto da aumentare, c'è qua, qui sono tramanente, ma quello di quel tanto non posso dare io. Oggi Cobra, ho sentito un po' male, perché c'è splatter da 45, però 9:20 sta arrivando, 48, me l'ha fatto Roberto per i sbratteri, io non sento nessuno del 45, proprio zero completamente, non sento altro, solo sul 45 non mi dà fastidio. No, io sento un po', se parla gente qua da Sassari vicino, sì, ma di propagazione no, non sento nessuno, non c'è problema. Cavaliere, Franco. Se sono sul 45, se sono negli altri canali, no, non sento niente, non ci sono problemi per me. Però se sento gente qua da Sassari, già purtroppo un canale differente perché alla 48 sono così, dai. Già va bene. Comunque, io ve l'ho detto, se poi c'è qualcuno scappolo che ha voglia di portarsi via mia sorella, fatemelo sapere, non c'è problema, gappa. Ha rotolato in banca mio fra, cos'hai capito? anche da sotto il pantalone. Remette il microfono per Valerio. Guardi, grazie a tutti delle due chiacchiere, veramente gentilissimi come sempre, KK. Facciamo altre 4 modulate. Gava, gava. Dai, ciao a tutti, ce la riascoltiamo più tardi, ragazzi. Ciao anche a te, Gigi, buona caffeina. Buon proseguo, Alghero, Valerio, Franco e Roberto, ci sentiamo dopo, dai. Io sono qua sul 45, o mi trovate nel canale 14 in QSO. Gava, gava. Ciao, chi è l'amicaccio che voleva entrare? Avanti l'amicaccio che voleva entrare con gli amici di Sardegna. Attenzione, attenzione, la città di Trento, che mi chiama Camino. Non c'è più. Dai, faccio la feina, io la Salvidio, no, Valerio, sempre Salvidio mi esce. E Franco, dai, datemi un attimino di collo che faccio una caffeina, dai. Sempre sbratter, mi arrivano troppo forti e qua è un problema, sì, non so per Santiago se non riesco a sentire. qualcuno sta fuori, adesso io non parlo come fare, avanti. Buongiorno Valerio, Valerio. Se mi ascoltavate, pure che noi siamo più consigli di che Fabio. Vai, mi fa piacere che sia molto Larghero, Larghero, ok. E adesso Larghero è bella, e tutta la Sardegna che è bella. Devi visitarla. Cambia destinazione, non venire solo al Larghero. Ok, riprendi Fabio. Sì, Fabio. No, no, ma io dicevo che mi piaceva particolarmente la zona del Ghero, ma abbiamo proprio fatto il giro completo perché è un furgoncino canterino, diciamo, e quindi me l'hanno gelato proprio tutta. Solo che ovviamente più di due settimane di se vuoi quello che riesco a fare, dai, insomma, era abbastanza veloce, ma dai, è qualcosa di più, a capire qualcosa. Sono anche per non essere piaciuto parecchio come zona, certo. La zona anche quella di Tassa, di molto importante. Ma di là della costa serata, insomma, che è un po' la parte famosa, diciamo, però è tutto. Che trascuriamo costruzioni e tempi vari, però bella, bella, veramente bella. Mi racconta quanto questo si parte, tanto di tanto a Franco, ma di nuovo Franco. Mi ha fatto piacere ascoltare. 51, buona giornata, buono buono per domani. Mi raccomando, quando ritorni in Sardegna, se dovessi venire qua ad Alghero, portati l'apparato, possiamo sentire e mettersi d'accordo per conoscersi. Riprendi nuovamente Fabio. Fabio. Okay, for you.